a fronte di questo c'è l'idea che ognuno di noi ha di quanto quel determinato sintomo ti debba condurre al pronto soccorso o comunque dal medico o comunque a uno screening più attento in tempi più ravvicinati. E ancora una volta, se andiamo a vedere gli studi clinici per l'approvazione di nuovi farmaci, i dati statistici, mediamente i farmaci, parlo di farmaci per esempio oncologici, cioè farmaci significativi, hanno più effetti collaterali avversi nelle donne rispetto agli uomini. Tutte queste cose sono da rivedere, perché il farmaco giusto potrebbe ottenere lo stesso risultato di efficacia con minori effetti collaterali. Con il tempo dovremo arrivare proprio a questo, a valutare in modo corretto incidenza delle malattie, sintomi, risposta ai farmaci nei due sessi. In molti casi, per esempio, si potrebbe ottenere lo stesso risultato nelle donne con una dose più bassa rispetto a quella emersa dagli studi, e ugualmente questo si potrebbe ottenere con le vaccinazioni. Tra l'altro, un'altra problematica è che anche laddove esistono studi fatti su entrambi i sessi, quindi un campione contenente sia uomini che donne, spesso i dati poi non vengono analizzati separando gli uomini e le donne, ma si fa la media di tutto ciò che è venuto fuori, e questo può coprire dei risultati molto interessanti. Un caso che leggevo, per esempio, è un vaccino contro l'herpes virus che è stato testato e abbandonato perché non dava risultati. Andando ad analizzare separatamente i risultati ottenuti su uomini e donne, si è visto che negli uomini effettivamente la risposta si era verificata solo nell'11%, quindi un numero basso e che giustamente portava all'accantonamento di quel vaccino, ma nelle donne invece aveva risposto il 73%, quindi ben altro numero. Non analizzandoli separatamente, questo non era emerso. E quindi, secondo me, molti dati anche accumulati negli anni senza prendere in considerazione queste differenze potrebbero essere rivisti, rivalutati, resettati in qualche maniera per, perché no, recuperare qualche farmaco, ma comunque individuare la giusta dose per ciascuno.